piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sto bene fisicamente e mentalmente, ora voglio solo stare tanto tempo con la mia famiglia e Silvia Romano atterra all'aeroporto di Ciampino alle 2 del pomeriggio. Dalla scaletta del Falcon dei servizi segreti scende una ragazza molto diversa da quella che 2 anni fa era partita per fare la volontaria in Kenya. Indossa una lunga tunica verde, il capo è coperto. Mi sono convertita all'Islam, dirà poco dopo agli inquirenti. Sul viso ha una mascherina, la sposta per scoprire un sorriso limpido e luminoso. Saluta e ringrazia il Premier Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio venuti ad accoglierla. A Milano, dove viveva, la attendono con trepidazione, ma prima di tornare a casa viene accompagnata nella caserma del ROS dei Carabinieri per essere ascoltata dagli inquirenti. Sono molti i punti da chiarire sul suo sequestro, dal rapimento ai giorni prigioniere in Somalia e ancora la sua conversione all'Islam e le trattative per il rilascio. Silvia Romano ora è libera, davanti a sé una vita tutta da ricostruire e un passato complicato con cui convivere. È stata la notizia, l'evento del pomeriggio di ieri, il ritorno, che sarebbe dovuto essere giustamente trionfale, di Silvia Romano in patria. C'erano ad aspettarla all'aeroporto di Ciampino autorità, il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, erano tutti pronti per giustamente incassare il merito di un'importante operazione di intelligence che aveva permesso il rientro in patria di una nostra connazionale dopo 18 mesi di prigionia. Era stata rapita dal villaggio in Kenya dove lei era cooperante, si occupava di bambini in difficoltà, era stata portata in Somalia, tenuta prigioniera da persone vicine al gruppo jihadista Al-Shabaab. Dopo una lunga e difficile trattativa era stata comunque riscattata e portata in patria. L'istante in cui si è aperto il portellone dell'aereo di Stato che avrebbe dovuto far apparire Silvia Romano ha dimostrato che qualcosa non era funzionato come tutti avrebbero voluto, sicuramente, perché si è presentata la ragazza vestita con un abito tradizionale di appartenenza comunque alla fede islamica, inequivocabilmente, un grosso abito che le copriva i capelli, che la ricopriva completamente, di colore verde. È scesa, ha salutato i genitori, ha salutato il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, devo dire con molto distacco e molta freddezza, ha fatto una veloce intervista, poi ha ripreso la strada che la portava alle rituali operazioni di interrogatorio da parte, diciamo, delle forze dell'ordine, delle autorità, di chi l'ha riportata in patria, e poi sarà tornata a casa sua a fatti suoi. Ha dichiarato pochissimo di ufficiale, si sa solo che si è convertita senza nessun tipo di coercizione, questo ha detto, alla fede islamica. Detto questo, naturalmente all'istante il contrattempo, la non sospettata variazione rispetto al protocollo della ragazza italiana che torna in patria, l'abbraccio, una grande operazione di Stato, è stata subito commentata in maniera anche molto virulenta nei social, che è il primo indicatore di quello che è il polso del nostro paese rispetto a un evento, con vari tipi di sfaccettature molto contrastanti. Una parte chi giubilava per il suo rientro, per l'operazione conclusa, da chi si era molto battuto. Questa è una ragazza che aveva fatto una scelta di vita molto estrema, una cooperante, una ragazza di poco più di 20 anni che decide di andare in un paese martoriato dalla guerra, dal disastro sociale, a occuparsi di persone più deboli. Fa comunque una scelta di campo molto singolare e anche molto ammirevole. Il fatto che sia stata rapita, il fatto che abbiamo pensato tutti per molto tempo che di lei probabilmente non avremmo mai avuto più notizia, sia stata tornata, naturalmente ha scatenato una parte la riconoscenza per chi ce l'ha portata e dall'altra parte il piacere che questa ragazza era tornata a casa sua. Però c'è stato un secondo fronte dei delusi. I delusi sono articolati su diverse posizioni, quelli che improvvisamente erano diventati esperti, dopo essere esperti di virologia, esperti di mascherine, esperti di vaccini, esperti di terapie alternative, sono diventati tutti esperti di sindrome di Stoccolma, e quindi tutti a dire la sindrome di Stoccolma prevede questo e quell'altro. Ma un gruppo anche molto più, diciamo, orientato sotto l'hashtag conversione, ha cominciato a dire: ma come, questa ragazza l'abbiamo salvata, abbiamo pagato tanti soldi e farla tornare, si presenta vestita con l'abito simbolo delle persone che l'hanno imprigionata, traditrice, ha tradito i valori della patria, ha tradito la nostra, le nostre radici cristiane, ha tradito tutti, insomma, ha cominciato una serie di illazioni. Poi, diciamo, i più fantasiosi, guardando numero 3 fotogrammi della prima intervista fatta al Corriere della Sera appena scesa all'aeroporto, siccome pareva che si toccasse la pancia, già avevano detto questa è incinta, si è sposata con un suo carceriere, quindi ha completamente abdicato. Quindi nell'immaginario generale si è appalesato quello che è il fantasma più fastidioso quando c'è un forte conflitto che contrappone due civiltà in totale contrasto, che una delle tue donne abbia ceduto al nemico e sia passata alla parte del nemico nella maniera più totale, addirittura concependo un figlio con il nostro nemico, che è qualcosa che rientra nell'epica più profonda e trasversale di tutte le popolazioni. In realtà è stata smentita questa diceria, non c'è nessun figlio in arrivo, non c'è nemmeno nessun matrimonio. Poi si vedrà, si capirà. Oggi Domenico Quirico sulla Stampa fa, che è stato a sua volta prigioniero 6 mesi in Siria, sa cosa significa e dice: attenzione prima di giudicare, immaginatevi qual è il tipo di pressione che si ha in situazioni simili con persone per cui la tua vita non vale meno di una mazza, che non, a cui non è sufficiente il fatto ti abbiano imprigionato, che tu sia il suo prigioniero, vogliono imprigionare anche la tua anima, quindi tu devi anche cedere a quella che è la loro visione totale della vita. Quindi questa ragazza, non sappiamo qual è stato quello che ha subito in questi mesi, non è stata una situazione facile, essere in mano comunque a persone senza nessun scrupolo, persone fanatiche, persone che usano l'arma del terrorismo, della violenza, della sopraffazione per imporre una loro visione della vita, probabilmente dovrebbe far riflettere un po' più prima di fare scelte di giudizio così, così sommare. Ma oggi abbiamo voluto noi riproporre questa domanda al nostro pubblico. Vogliamo capire cosa ci sia dietro questa sorta di elemento di delusione generale. Abbiamo articolato 3 possibili, diciamo, letture del senso generale di delusione, perché c'è stato, comunque c'è stato sicuramente delusione da parte delle autorità che volevano incassare l'indubbio vantaggio di aver fatto una brillante operazione, un momento di gestione difficile, l'opinione generale, sempre usato questo sistema diciamo, l'italiano che rientrava dalla brillante operazione, del terrorista arrestato, del mafioso arrestato, e quindi anche in questo caso potesse un bel incasso. Non so se casuale o voluto, da una sorta di cerimoniale cosmesi dell'immagine della politica di governo, magari scegliere il giorno della mamma per la presentazione ufficiale dell'operazione poteva essere una cosa che emotivamente aveva un senso, ma quando si è presentata vestita in quella maniera, naturalmente, sotto quelle mascherine, quella tricolore poi di Maio doveva rappresentare l'orgoglio nazionale, probabilmente un po' di delusione c'è stata, si capiva che le cose non erano poi andate come volevano. 800240024, vogliamo sapere esattamente secondo voi perché c'è stato questo senso di delusione, perché una persona è libera di scegliere, di convertirsi a quello che piffero voglia, perché vi aspettavate probabilmente che arrivava, magari si inginocchiava e baciava subito il crocifisso appena scesa dalla scaletta di quell'aereo. Ieri pomeriggio, nello stesso istante in cui la 24enne Silvia Romano metteva piede sul suolo patrio scendendo dall'aereo che la riportava a casa, scoppiava la guerra nell'arena dei social e dei commentatori da tastiera. Una feroce contrapposizione tra due fazioni a colpi di accuse reciproche, commenti rabbiosi e insulti. Da una parte gli entusiasti commossi per la liberazione e il ritorno della connazionale dopo 18 mesi di prigionia, dall'altra parte i critici per il probabile pagamento del riscatto o per l'ostentazione di una conversione avversione religiosa. Oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori cosa c'è alla radice di questo risentimento verso una connazionale rapita e qual è l'elemento divisivo di questa vicenda. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci qual è la vostra ipotesi tra 1. Non si accetta che una ragazza dedichi le sue energie e il suo impegno per un ideale terzomondista. 2. Non si perdona a una donna di avere aderito alla religione del nemico. La sua conversione è un tradimento delle nostre radici spirituali e culturali. 3. In questo periodo di crisi nera per tutti, un esborso di denaro pubblico viene considerato un affronto per gli italiani in difficoltà. Abbiamo dato tre possibili ipotesi, affondando, diciamo, nel luogo comune più antico, nel pregiudizio più trito, nella possibile immaginazione di chi voleva, al contrario, magari, non so, si aspettavano atti di eroismo, atti di sacrificio, rinuncia a abbandonare quelli che sono i propri convincimenti. Poi non sappiamo esattamente come la pensasse prima Silvia Romano e non credo sia manco fondamentale. Quindi cominciamo a sentire i nostri ascoltatori, che sono un esempio significativo di quella che può essere la molla che ha fatto scattare opinioni che vanno dal dubbioso all'arrabbiato sul ritorno di Silvia Romano. Dario da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, volevo dire tre cose velocissime. La prima, sono molto contento che l'Italia ha salvato una vita di una ragazza giovane di 25 anni. Seconda cosa, veloce come la prima, non credo alla prigionia a questo punto. Sì, penso che la prigionia forse può essere stata per i primi mesi, ma ultimamente, se si è convertita, non credo che tengano in prigione una che ha la stessa fede. E terza cosa, ma non è che vanno molto delicati nei confronti delle donne da quelle parti? Le donne comunque sono sottomesse, le donne comunque sono considerate qualcosa di rango sicuramente e di dignità inferiore rispetto agli uomini, che sono i guerrieri, che sono quelli che comunque portano avanti la guerra. Quindi non mi meraviglierei molto, però questo non lo sappiamo, questo rientra nelle ipotesi. Però voglio dire, io non la chiamerei più prigionia. Direi che è stata rapita e poi c'è stata un'evoluzione, è partita con un rapimento e poi, cioè, non mi sembrava una persona vista in televisione distrutta dalla prigionia, mi sembrava una persona abbastanza serena, però posso anche sbagliarmi. E la terza cosa, ma questo diciamo, perché la fa pensare meglio, se è serena siamo tutti contenti, qual era, esatto, il problema? Anch'io sono molto contento, proprio contentissimo, voglio dire, ha fatto una scelta di cambiare religione, trovo che sia un diritto sacrosanto. Se un islamico vuol diventare cristiano ne ha il diritto, se uno di fede cristiana vuol diventare islamico, benissimo, cioè, credo che sia la libertà che perlomeno io riconosco. Poi vabbè, ho il dubbio che dall'altra parte riconoscono anche loro questo tipo di libertà, però è una libertà che ognuno di noi, uomo, donna o ha. La terza cosa è invece che mi aspetto che un rappresentante, io non lo so chi è il loro papa, cioè io se sono cristiano cattolico, però c'è qualcuno che li rappresenta, io mi auguro che qualcuno che li rappresenta, che li rappresenta ringrazi il popolo italiano per aver liberato da dei rapitori una ragazza di 24 anni di fede islamica. Ecco, io mi aspetto questo, perché... Sì, ci sono state delle dichiarazioni questa mattina dell'Unione Italiana in Italia, appunto, che raggruppa le persone di fede islamica, ha semplicemente scritto, adesso cito a memoria l'agenzia, l'ho visto in maniera frettolosa, che non rappresenti motivo di discriminazione il fatto che si sia convertita. Poi sì, dovrebbero dire grazie che avete tolto dalle mani di persone che non rappresentano la bellezza della nostra fede in quanto terroristi e violenti una nuova convertita. Va bene, Claudio dalla Spezia, buongiorno. Sì, Claudio, buongiorno. L'ascolto. Io sceglierei la versione numero 3. Sì. che soldi pubblici non vanno spesi per, non vanno spesi per queste cose. Ma per un motivo facile. Negli anni 70, se vi, si ricorda senz'altro, c'era il problema dei sequestri di persona. Come lo risolsero? Aumentando la pena e con l'immediato sequestro dei beni delle famiglie. Ci sono state famiglie italiane che hanno magari anche sofferto e pianto, però si riuscì a sconfiggere il problema dei sequestri di persona. Ora il governo Conte ha attaccato il cartellino del prezzo sulle persone italiane che stanno in zone non sicure. Ma l'ha fatto tutti anche i governi precedenti. Sì, ma tutti i governi, a parte non sappiamo la cifra. Ma vale anche per quelle due che erano venute, che erano state sì, in. Non mi ricordo, sì, ma l'abbiamo sempre fatto. Diciamo, l'Italia ha sempre fatto di tutto per recuperare i propri cittadini in condizione di prigionia e cattività. Non è che l'ha fatto il governo, l'abbiamo sempre fatto. È una nostra linea fare il possibile dando priorità e valore alla vita umana. Lei non è d'accordo su questo e quindi fa parte comunque di persone che hanno espresso per questa ragione la loro distanza. Velocemente, Giovanni da Padova. Giovanni da Padova? Sì, sì. Buongiorno, salve. Sì. Io invece sono dell'avviso che la ragazza sarebbe dovuta presentare in abiti civili, normali, senza nessun segno religioso, perché uno può anche non essere necessariamente cristiano, ma visto che avrebbe avuto sicuramente visibilità mediatica, sarebbe stata accolta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, avrei ritenuto opportuno che chi l'accompagnava l'avrebbe detto: guarda, ci sono le telecamere e tutto, fai dopo quello che vuoi, la tua scelta è libera naturalmente. Sì, ma evidentemente non c'è stata, sì lo so, ma evidentemente non c'è stato molto male, molto margine male di negoziazione su aereo. Sì, ma non c'è stato margine di negoziazione. Immagino che le persone che l'hanno accompagnata hanno detto: magari per la discesa ufficiale si può evitare questa cosa. Se lei è rimasta così, evidentemente è stato un atto volontario, ben preciso, di dimostrazione del suo passaggio. Questo è chiaro, perché non è stata una cosa casuale, c'era proprio un'aperta e palese volontà di dimostrare che era un'altra persona, e questo va dato atto. Potevano, come ha detto Salvini, farlo più discretamente, non farlo vedere, ma perché nascondere come si nasconde la polvere sotto il tappeto? È tornata, era convertita. Adesso vedremo, ci dirà come, dove, quando, attraverso quale percorso. Ci fermiamo soltanto un istante. Questa ragazza si è gettata nell'azione di pura gratuità, con tutta la forza, la passione e, perché no, tutta l'enfasi propria della sua età. Se ha compiuto degli errori, li ha fatti in buona fede e adesso ne sta pagando le conseguenze. Quindi noi non dovremmo usarla come alibi per giustificare la nostra indifferenza. A chi la rimprovera di non aver saputo prevedere i pericoli a cui andava incontro, lei potrebbe rispondere di aver preferito il rischio generoso alla mediocrità del calcolo azzeccato. Questo è lo scrittore Eraldo Affinati che parla del caso Silvia Romano, però notate bene, ne parla nel 2018, quando lei fu rapita. La clip risale da allora. Vedete che in fondo poi l'opinione anche allora dice le stesse cose. Chi gliel'ha fatto fare? Perché è andata lì? Se vai lì devi assumerti anche i rischi, perché dobbiamo noi pagare poi, che ne so, il desiderio di, che ne so, di autogratificazione di queste persone. Insomma, c'è sempre stata un'idea che chi si occupa di cooperazione può avere una sua vocazione ideale e che deve anche prevedere la capacità di accettare il martirio. Mi sembra che sia una cosa che riguardi i nostri tempi, la contemporaneità che stiamo vivendo. Secondo me non c'entra nulla. C'è uno scrittore giapponese, Tsusaku Endo, che ha scritto un libro, un capolavoro, c'è stato anche un bel film, Silenzio, che parla della conversione forzata dei gesuiti portoghesi che andavano nel XV secolo in Giappone per evangelizzare. In Giappone c'erano dei gruppi clandestini di cristiani, quando li beccavano gli facevano torture giapponesi, li crocifiggevano, li mettevano a testa in giù, li facevano sgocciolare il sangue goccia a goccia, insomma cosette brutte. Per salvarsi bastava calpestare un crocifisso, giravano questi giapponesi con il crocifisso sempre in tasca, calpestalo, se uno calpestava era salvo, se uno calpestava giù a sgocciolare sangue. E questo padre Ferrera a un certo punto, per visto un po' di gente fatta a pezzi, ha detto sentite, sai che nuova c'è, la vita è importante, è diventato un santone shintoista. E quando andò un suo confratello a ritrovarlo rimase deluso perché aveva abiurato. Ecco, per far capire cosa c'è dietro di paura, di terrore, di difficoltà anche in una non accettazione del martirio, ma mica nasciamo per fare i martiri. Quindi 800 24 00 24, intanto ringrazio da Milano Carmelo Lauricella in regia, in assistenza Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti da Roma, e vi ripropongo quello che è il nostro sondaggio per capire un po' l'opinione pubblica secondo quali direttive si è orientata verso un senso di fastidio per il rientro di Silvia Romano. Non accettate che una ragazza dedichi le sue energie e il suo impegno per una causa terzomondista, vi sta antipatico questa cosa qua. Se aiutiamoli a casa loro, basta che non ci fanno italiani ad aiutarli. Non perdonate che una donna abbia aderito a una religione considerata nemica. La sua conversione è considerata un tradimento delle nostre radici spirituali e culturali. Terzo, in questo periodo di crisi in cui tutti andiamo lì a chiedere aiuto, sussidio, appoggio, un esborso di denaro pubblico viene considerato un affronto per gli italiani in difficoltà economica. Quindi 800 24 00 24. Stefano da Reggio Emilia. Sì, pronto. Sì, buongiorno. Buongiorno, ma lei non prova un piccolo senso di vergogna nel dire quello che dice nel tessere ogni giorno, lodi? Ogni giorno tantissima, vorrei dire, no, cose nel, migliori, nel tessere cioè lodi di questa demente che a causa sua ci è costato un ma sacco demente, di soldi. Scusi Stefano, se vuol continuare a parlare, se no lei parla alle condizioni che dico. Libertà cosa, di parola, quindi lei sì, libertà di parola è un paio di cazzi, forte, scusi, libertà di parola, demente lei, non ha diritto di demente. Di lei è un'eroina totale, proprio è un grande esempio per i giovani. Calmo, Stefano, stia calmo. Ma stia calmo lei, che mia moglie a casa senza cassa integrazione abbiamo speso dei milioni per finanziare i terroristi che faranno dei morti innocenti. Se ne rende conto che comunque i milioni faranno dei morti innocenti sui morti? Non è nella mia opinione, sono i fatti, perché lei vuol dire agli italiani che è liberata gratis? No, lei Stefano, io non accetto il suo tono aggressivo che fa perdere la pazienza. Se lei lo dice con calma può esprimere la sua opinione, ma con calma, non dia della demente a nessuno e non alzi la voce e stia tranquillo, lo esprima con tranquillità il suo punto di vista. So fa perdere la calma anche a me e mi dispiace di dire parole che non si dicono alla radio. Perché dice demente? Demente è un giudizio suo, non ha diritto di dare del demente a una persona, ha fatto una sua scelta. Una ragazza che si è voluta occupare di persone in difficoltà in un altro paese, è stata rapita, ha passato 18 mesi, non sappiamo come, perché dobbiamo saperlo come. Lo Stato ha pagato un riscatto, ma sempre fatto per tutti gli italiani, non soltanto cooperatori, ma anche giornalisti, di ogni tipo, persone che si trovano in queste difficoltà. Se un domani lei, Stefano, si trovasse in un paese straniero in cui c'è il terrorismo, sono condizioni di estrema difficoltà e fosse rapito, ma lei anelerebbe che lo Stato pagasse un riscatto per riportarla alla sua famiglia? Si metta in quelle condizioni lì, dire lo Stato non deve pagare perché sua moglie è in cassa integrazione, sua moglie nelle situazioni di difficoltà in cui è grande parte del nostro paese, ma questo è un altro discorso. Non è che i soldi risparmiati per pagare il riscatto di un connazionale che è in pericolo di vita vanno poi altrimenti a compensare le casse integrazioni delle persone in difficoltà. È un discorso molto semplicistico. Ognuno può esprimere la sua opinione, ma le condizioni che dico io, esprimerla con calma, con tranquillità, possibilmente senza insulti. Corrado da Roma. Corrado? Caduto Corrado, allora Giuseppe da Ragusa. Giuseppe. Un attimo che tolgo la prima voce. Sì, sì, buongiorno. Eccomi. Sì, mi dispiace di dover perdere la calma, una persona che comincia a alzare la voce da subito il demente mi dà fastidio, proprio fastidio. Prego. Però i punti di vista sono sempre rispettabili, quasi che sia. La ragazza quando rispettabile, l'ho vista, ma è rispettabile anche la maniera di esporli, mi scusi. La maniera non era contro. No, io quando ho visto l'immagine della ragazza prima di essere rapita, era una ragazza solare che, cioè, sprigionava gioia di tutti i pori. Detto questo, ma quando è tornata esprimeva gioia, a modo suo esprimeva anzi più gioia quando è tornata. No, quando faceva il suo lavoro, no, quando era prigioniera, quando faceva il suo lavoro lì nel villaggio dove era stata destinata, la vedevo molto partecipe con i ragazzi, almeno dai filmati, e l'ho molto apprezzata. Detto questo, il sospetto viene che oltre a sposare la religione islamica abbia sposato anche la lotta jihadista. Viene il sospetto, ma è un sospetto. Questo non l'ha detto. No, ha detto che ha capito le ragioni della lotta. E può venire. Vediamo, io aspetto che lei dichiari. Io mi fermo all'opinione epidermica. Anche io sono rimasto, che l'ho vista. Io pensavo all'inizio che avesse una sorta di vestito per anti-Covid, quelle che usano gli infermieri, i medici, no. Una sorta di camice. All'inizio, proprio la prima impressione. Quando mi sono accorto così, sono rimasto anch'io un po' perplesso, perché lo trovavo. È un gesto indubbiamente che lasciava perplessi. Certo, è il chiaro, punto mio che volevo. Io ho capito che ha sposato anche le ragioni della lotta jihadista. Di quelle vediamo, che l'hanno quando radito. Lo dirà. Quando dirà, se dirà io appoggio il terrorismo, sbaglierà. Diciamo, quei milioni servono per una ragione, per una causa che ha sposato, che sposa anche lei. Questo è il sospetto, sì. Questo tremendo sospetto. Sì. Se poi È un sospetto che uno può benissimo maturare, però aspettiamo la conferma. Però ricordo che lo Stato spende i suoi soldi anche quando ci sono vacanzieri che vanno in posti difficili e non sanno gestire, tipo alpinisti, sciatori che si disperdono, che vanno a fare viaggi estremi e non sanno gestire la situazione. Lo Stato spende i soldi per salvare i suoi concittadini, lo fa sempre. La speranza che accada anche a noi qualcosa del genere, se un domani ci sono trovare in difficoltà. Mohamed Ali da Milano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono un rappresentante della comunità islamica di Milano tramite un centro qua di Milano. Volevo ribadire che la situazione di cui stiamo parlando non ne vedo negatività oppure c'è da vergognarsi, anzi bisogna esserne fieri tutti, sia chi ha partecipato, sia d'accordo, sia che non. Perché? La salvezza l'operazione di una persona, di recupero della connazionale, dice, certo, è chiaro. Sì. Certo, a prescindere che sia musulmana o meno, è stata per un essere umano. E qua, se collaboriamo tutti, soprattutto in queste circostanze, è una cosa di grandezza. Però poi, lei gentilmente, visto che è un mediatore culturale, ha strumenti sicuramente più informati dei miei. Dica. È corretto quello che ha detto l'ascoltatore, che comunque sia convertirsi all'Islam non significa abbracciare la battaglia terroristica del gruppo jihadista al-Shabaab? Certo. Allora l'Islam è già sappiamo e lo diciamo e sottolineiamo sempre e dovunque che l'Islam non è associato al terrorismo, assolutamente, è contrario. L'Islam, e anzi invito la gente, prima di fare idee e pensieri personali, di capire le circostanze e anche leggere il Corano per capire esattamente che cosa dice l'Islam. Perché la gente parla. Questo è un esercizio che se uno vuol fare può farlo, ma le dico, non è obbligatorio, onestamente. Il punto di vista laico, se una persona vuole scegliere di abbracciare una religione, è libera di farlo. Il punto su cui probabilmente Silvia Romano sarà importante che faccia chiarimento è che il suo rientro non significa un'adesione entusiastica al gruppo terrorista jihadista che l'ha rapita. Lei può dire, frequentando comunque, stando in prigionia, ho letto il Corano, ho detto lei, ho capito che quella era la mia strada, buon per lei, se questo la rende felice va bene. Questo però bisogna capire se lei invece dice, no, sono tornata e divento la bandiera, come molti hanno detto, la testimonial di un gruppo terroristico. Spero questo non accada. Matteo da Bergamo. Buongiorno Nicoletti. Prima di tutto sono felice per la liberazione e credo che, non conoscendo assolutamente nulla di retroscena in questa storia, noi intesi, cioè, commenti e odio non ce ne deve essere assolutamente, perché è libera di fare qualsiasi tipo di scelta personale. Ma come ogni essere umano, solo... me poteva scendere anche con che ne so, vestita da non lo so, da qualunque cosa. Da pulcinella. Ecco, esattamente, erano fatti suoi. Assolutamente. Provo ad andare un po' più in là e mi sento anche di dire, magari dietro c'è anche un accordo non scritto dove coloro che la tenevano in ostaggio hanno chiesto che ci fosse una manifestazione di adesione all'Islam all'Islam per far acquisire valore all'Islam, perché questi gruppi hanno anche bisogno di potenza mediatica. Ma questo, siccome non lo sappiamo, rientra nelle ipotesi, potrebbero esserci altri ostaggi, o potrebbe essere che lei si è convertita all'Islam e domani dirà sono degli infamoni questi di Shabab, che sono degli assassini, dei criminali, non hanno a che fare con l'Islam. Aspettiamo che lo dica. Io mi fermo ai dati di cui abbiamo certezza. È tornata, era vestita in quella maniera e ha detto: io mi sono convertita. Su questi tre punti si articola comunque l'analisi di oggi. Se noi entriamo nelle ipotesi, come quelli che hanno detto guarda è incinta, che pare che non sia vero, sia incinta semplicemente perché aveva appoggiato la mano un attimo sulla pancia, c'è cioè il gesto di chi è incinta. Ma pensate, è stata 18 mesi comunque fuori da casa e comunque a rischio vita, perché non è che sono persone per cui la vita di una donna non sottomessa abbia valore di più di una scarpa vecchia. Quindi sicuramente il pericolo c'è stato, sicuramente la pressione psicologica c'è stata. Poi vedremo come questo ha fatto scaturire una scelta. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800 24 00 24. Vado subito alle telefonate, che sono tantissime. Evidentemente è un argomento di cui le persone hanno bisogno di parlare. Lo faccio e ancora sono contrito per aver detto una parolaccia all'ascoltatore. Mi dispiace, non mi è scappato proprio. Uno che mi aggredisce comincia subito con una voce in levare il mio istinto di rozzo abitante delle impervie terre dell'Umbria agreste, fa sì che risponda male. Enrico da Pavia, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, niente, un flash, è già stato detto, già stato ventilato, ma il mio dubbio, a parte che sono contento per lei che è venuto a abbracciare, se non altro perché ho visto che ha abbracciato finalmente i propri genitori e via via, bisogna ringraziare e dare merito alle forze dell'ordine e all'intelligence di averla, però pensare male si fa peccato, però. Molte volte si indovina. Chi mi dice che si è convertito all'Islam? Prima di tutto si è convertito all'Islam di quelli lì, perché lei ha conosciuto, sono loro che l'hanno con... Si prova dalla conclusione del pensiero, la conclusione del suo pensiero. Vedendo loro, allora che mi dico che chi dice che si è sbloccato dopo 18 mesi, perché così almeno lei tornando a casa ha fatto prendere dei soldi che gli servivano ai suoi posso cattivieri. Fare una domanda, è una persona di fede oppure ha un io aspetto... sono una persona di fede, molto di fede. Ecco, allora, se lei si trovasse in una situazione di pericolo di vita, le dicono abbiura la tua fede se no ti facciamo a pezzi, lei cosa farebbe? Dipende, io magari mi farei fare a pezzi, perché guardi quanti milioni di martiri ci sono stati, però io non pretendo una vocazione al martirio, no. Però guardi, sì, non ma, è obbligatorio, io non pretendo che le persone siano tutti martiri, perché ma io mi convertirei anche se mi dicono ti strappo un'unghia, cioè mi convertirei qualunque cosa, perché per me non ha nessun valore una conversione forzata. Posso convertirmi a qualunque tipo di idea, di religione, di politica, mi importa, certo rimango anche, sempre io, non mi cambia nulla. Anche Pietro ha rinnegato il Signore tre volte. Sì, ma quella comunque è un aspetto diciamo di tradizione religiosa. Io dico che io rimarrei sempre Gianluca, qualunque fede dicessi di abbracciare. Lei è un laico, io sono un credente. Giustamente, la credente, io ho la vocazione del martire, però io non pretendo per tutti che questa sia l'unica strada, non ero obbligato al martirio. Giovanni da Vicenza. Salve, buongiorno, grazie. L'ascolto. Niente, io condivido, cioè io sono felice per il ritorno di Silvia, sono stato anch'io volontario al servizio civile all'estero in Sud America e chiaro non ho passato quello che ha passato lei, però credo che a parte il diritto inalienabile dell'essere umano di manifestare, di portare la pelle a casa, ecco, comunque no, sia di manifestare qualsiasi religione o culto, no? Ma io penso che l'asta o comunque la parola d'ordine sia appunto che Silvia stia bene, che sia tornata, poi che si sia convertita, che abbia letto il Corano, quello penso che sia a parte. Io penso che l'importante è che una persona sia Giovanni, è palese, è inutile fare i finti tonti o fare i buoni a tutti i costi, è palese che il suo è stato un gesto politico molto forte, ha voluto dimostrare qualcosa di indubitabile. perché l'abbia fatto lo spiegherà lei, se vuole spiegarlo, se no a tutti gli effetti comunque dirà aveva diritto di farlo. L'importante è che non segua questo una sua adesione all'idea terroristica e integralista. Questo creerebbe qualche problema in realtà, perché questo creerebbe qualche problema, ma non credo che se avesse avuto questa idea sarebbe tornata in Italia. In Italia non si torna con l'idea di fare pubblicità al terrorismo, perché questo si profila come un reato. Marco da Como. Pronto, buondì. Io sono 20 anni che mi occupo di sociale e all'inizio della mia lunga carriera mi occupavo di dormitorio e una delle mie prime esperienze mi sono trovato un taglierino puntato sotto la gola perché non ho fatto entrare una persona per mancanza di posti letto sotto la gola. Questo non mi ha fatto comunque recedere dalla mia età di avere e di poter continuare nel mio aspetto di aiutare le persone nel sociale. Adesso mi occupo di sanità e tutto il resto, ho avuto altre esperienze non felici nell'ambito sanitario. Nelle ultime 24 ore mi sono trovato davanti a situazioni tipo questa, a parte la conversione, che è una cosa che può esserci stata. Se lei scusi, ha detto che si è trovata solo a leggere il Corano, probabilmente nel Corano ha trovato degli spunti positivi, ha deciso di aderire alla religione coranica. Ma a me sembra avesse dato per 18 mesi le avventure di Pinocchio, uscivo, dicevo sono mangiafuoco, guardi, le dico assolutamente così, per me non c'è poi molta differenza alla fine. Comunque è chiaro, Marco mi dice, in certe situazioni si va a occuparsi di persone ai margini, persone con difficoltà o di persone che naturalmente vivono al di fuori delle regole della società. È chiaro che sono scelte che comportano anche dei rischi, ma penso lei ne fosse consapevole. Luigi da Bergamo. Sì, buongiorno, ascolti. Io ieri giustamente mi sono commosso nel vedere questa ragazza che è arrivata viva, le scene, tutto quanto, perché chi non si commuove, sono felice per lei, per la famiglia. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole dalla propria vita. Ma anche di non commuoversi, io non mi sono commosso, è tornata bene. Non cioè, mi sono commosso la scena, però voglio dire, sono felice. Sono altre per cose la famiglia che mi fanno commuovere, sinceramente. Bene, è tornata una bella operazione, siamo contenti, fine. Benissimo, però mi pongo una domanda: se a fronte di questa situazione di pericolo, ogni volta lo Stato deve intervenire e mettere mano al portafoglio, quindi mettere mano al portafoglio degli italiani, io dico, se tu sei cosciente che vai a fare un'operazione in paesi dove sei sottoposto a rischi di vita e di pericolo, tu prima di partire devi obbligatoriamente fare una bella assicurazione a favore di terzi, perché se succedono determinate situazioni tu devi pagare, devi risarcire, perché è una tua scelta, non è è un'ipotesi. Le assicurazioni non risarciscono nemmeno i danni da sommossa se ti bruciano l'automobile durante una manifestazione di tifosi ultra. Figuriamoci se una situazione assicura uno che va in un territorio contro i danni a terrorismo. Può essere, ma prima di incassare il premio dovresti tornare morto probabilmente. La trovo un po' difficile, capito? Trovo un po' difficile. Lei pensi quanti sono i cooperanti che stanno in giro per il mondo? Non è che lo Stato su tutti deve sborsare. Sborsa o si dà da fare quando entrano in difficoltà. Rita da Ferrara. Buongiorno. Sì, l'ascolto. Buongiorno, io credo che siano vere tutte e tre le vostre idee. Non sono nostre idee, abbiamo dato tre caselle in cui si poteva collocare il dissenso, non è che sono le nostre idee. Certo, perché intanto credo che la posizione di una donna che decida di fare un mestiere del genere venga vista proprio male. Già il lavoro di cooperazione, l'impressione che dà è che sia visto come inutile. In più, se è una donna e una ragazza giovane, è ancora più attaccata dal mio punto di vista in questo ambiente. Sì, ci sta, certo, sì. E il fatto che vengano spesi dei soldi in questo momento alimenta la frustrazione e la rabbia di alcune persone che si trovano sicuramente in difficoltà. E quindi è un capro espiatorio sul quale lanciarsi. E la religione per ultimo. Vabbè, l'abbiamo messa apposta, Rita. L'abbiamo messa perché pensavo che lei ha una sua opinione personale, velocemente, in un secondo. Vabbè, mentre ci pensa, diamo la sigla perché la trasmissione è finita. abbiamo colto nel segno le opzioni che abbiamo noi indicato, bene o male riassumevano quello che era l'insieme degli atteggiamenti negativi sul ritorno di Silvia Romano. Aspettiamo le novità e le dichiarazioni. Alla prossima.